Innanzitutto grazie alla compagna per questa bellissima introduzione e per il suo contributo all'assemblea. Mi volevo un po' ricollegare a quello che è stato detto da Pasqua, da il ragazzo di Roma, che purtroppo non so il suo nome, che è appena intervenuto, e anche appunto a quello che diceva prima la nostra compagna di Roma. Allora, nella femminile, sono Eleonora della Stella Rossa, scusami. E nella femminile, qualsiasi sia la regione in cui si gioca, qualsiasi sia il campionato, c'è sempre una grandissima disorganizzazione perché il rugby femminile esiste da molto tempo, però non viene mai considerato tanto quanto quello maschile. Basti sapere che le atlete di Serie A che giocano a rugby iniziano a percepire uno stipendio per la loro attività sportiva solo da qualche mese, mentre la maschile è sempre stata pagata per giocare in Serie A. Quello che diceva Pasqua, cioè il problema degli spazi, è vero, cioè noi sì, abbiamo un campo duro, abbiamo un campo collegato bene, ma la problematica è sempre che noi siamo nell'area piccola, quando la maschile, che sono una trentina, 35, quando va bene, si deve prendere tutto il campo per ovvie ragioni di spazio. E quindi cosa si può fare anche per insomma, non contribuire ad alimentare stereotipi sessisti a partire dalle piccole cose come gli spazi, come le divise, come l'allenatore. Sarebbe bello autoformarsi, come è stato detto anche in un'assemblea interna di fine stagione, qui alla Stella. Il punto è che nella femminile la metà saranno veramente in due o tre le ragazze che si sono trovate a giocare prima. Siamo tutte nuove, come spesso accade. Quindi si parte da zero, si può fare un corso di formazione per diventare allenatori, allenatrici, arbitri, però non ci sarà mai l'esperienza di base che si fa solo con anni e anni di partite, allenamenti e campionati. Quindi la mancanza di una figura fissa, per le femminili, per le squadre femminili è sempre un problema e ci auguriamo non lo sia ancora per molto. E poi per quanto riguarda la figura della maschile in campo, ci siamo sempre interrogati sull'autonomia della squadra femminile, quanto è importante giocare misti, quanto è importante che ognuno giochi un campionato diverso, lo stesso campionato. Le domande che sono venute fuori erano: perché una ragazza o una qualsiasi persona deve scegliere se giocare o un campionato FIR come quest'anno o se giocare un campionato WISP? Perché un ragazzo può giocare il suo campionato, le ragazze possono giocare tutte e due, ma la maschile no. E quindi si interrogava tanto su quale campionato partecipare, cioè giochiamo tutti WISP, continuiamo a giocare un po' WISP, un po' FIR. E per quanto appunto sempre l'esperienza della maschile faccia tanto, anche per noi ragazze rimane sempre un po' quest'ombra di mansplaining, ovviamente non intenzionale, sia chiaro, non dico che siete tutti misogini che fate mansplaining, per carità, però c'è sempre il fatto che la femminile senza uno della maschile non sia in grado di andare avanti, cioè effettivamente noi un po' ci guardiamo negli occhi e diciamo cosa facciamo adesso. Il Berga si è impegnato tanto, ma solo il Berga non basta, è stato detto anche prima, quindi sarebbe, cioè perché non trovare qualcun altro, una specie di Giorgio, che sia una Giorgia per la femminile. Giorgia. Sì, no, infatti no, giusto per dare un po' di chiarezza per quelli che non conoscono bene come siamo messi adesso. La Stella Rossa, partecipando al campionato WISP, dà la possibilità ovviamente a chiunque di poter giocare in quel campionato, a prescindere ovviamente dal sesso. E quindi la domanda che si faceva Elio è, ora come ora, su cosa io ragazza debba puntare come formazione personale, se cercare di giocare il più possibile con la WISP, perché comunque voglio esordire con la squadra che fa il campionato WISP, oppure dedicare una parte di tempo anche a crescere come squadra femminile, perché sono comunque due progetti ai quali ci tengo. E quindi credo che fosse una domanda La per. domanda che avete fatto all'assemblea di fine campionato che ci si chiedeva, ma quindi Va bene, quindi no, non. Ma Alessia è ancora sì. collegata? Non so se lei Sì, ha magari questa è una c'è uno spunto domanda. interessante. Non so se Alessia vuole dire qualcosa, che poi comunque possiamo Diciamo, sviscerare rispetto dopo. agli spa, diciamo, l'argomento è abbastanza vasto, quindi mi limiterò a dire solo poche cose, così magari poi lo potete affrontare anche dopo. Rispetto agli spazi è inevitabile, diciamo, un po' il compromesso. Quest'anno noi abbiamo fatto un po' un colpo di mano, devo dire, la femminile sulla maschile, però è anche un percorso che è venuto dopo diversi anni, per cui sicuramente gli spazi erano divisi, sicuramente i numeri erano quasi identici e come dicevo prima abbiamo scelto di dedicare molte risorse perché per questo nostro primo campionato, perché volevamo che fosse l'esperienza migliore che le ragazze potevano viversi, tanto che la maschile ci ha ricriminato il contrario quest'anno di aver investito come gruppo tecnico poco su di loro. L'autoformazione interna è fondamentale, e è un percorso lungo, è un percorso complicato, e per noi il Reds è stato sempre, diciamo, anche la una delle caratteristiche che ci ha contraddistinto, per cui ognuno degli allenatori era stato giocatore o comunque è stato un elemento che si è formato all'interno. Non è una cosa semplice, come diceva la compagna della Stella Rossa, e va fatto in modo che comunque le ragazze che sarebbe auspicabile che fossero delle donne o comunque un gruppo almeno di donne anche ad allenare la femminile, perché comunque c'è una modalità e un approccio diverso alle esigenze e ai bisogni delle ragazze, e però ovviamente senza che questo poi precluda loro la possibilità di potersi allenare, che non può andare a discapito appunto di un'esperienza positiva poi del vissuto realistico che dovrebbero avere, ecco. Io ho iniziato così, cioè io giocavo come diceva Stefano, e poi piano piano, dopo un po' di anni che giocavo, ho iniziato a formarmi prima con un percorso interno con i nostri formatori, e poi ho fatto il percorso federale, ho iniziato l'abilitazione per il primo, secondo, tre bambini e il terzo livello. Però è un percorso lungo, è un percorso anche insomma importante, a cui va dedicato un bel po' di tempo, quindi se le ragazze sono tutte neofite o comunque quasi neofite, secondo me non vanno penalizzate nella loro espressione sul gioco, ecco, a discapito della formazione poi come allenatori. È sempre molto difficile trovare un compromesso tra questo, però è una cosa secondo me anche a cui bisogna ambire, l'autogestione interna pure nella formazione e nel reperire gli allenatori delle squadre. Perché è un'altra cosa, cioè noi lo possiamo dire, perché in alcune fasi abbiamo sperimentato allenatori esterni e per quanto possano essere affini alla tua realtà non sono sempre interni, ecco, quindi. E questo lo siamo accorti, lo sappiamo anche noi, ci siamo accorti con l'esperienza. Ci sono altri ultimi interventi, Pasqua? Allora, io volevo dire una cosa. Se vogliamo parlare poi dopo di questa cosa, appunto gestione di allenamenti maschile e femminile, abbiamo messo proprio un punto dopo. Se ci sono domande specifiche riguardo al percorso che stanno facendo le compagne di Orrez, giù lo facciamo ora alla compagna, se no magari andiamo avanti, facciamo un attimo una chiamata con il compagno della Valle e dopo questo argomento però lo riprendiamo. Ok. Se ci sono, allora c'era Gio voleva parlare. Johannesburg. Allora facciamo mo. A me va qua. Mi sembra più. Facciamo mo. Vai. No, niente. Chiama la Valle, zio. Ragazzi. Dopo. Va bene. Dato che si stava parlando della differenza fra FIR e WISP, cioè a me viene da dire che in realtà non sarebbe da fare una scelta fra le due. Cioè il valore di una squadra esclusivamente femminile è diverso dal valore di una squadra mista. Sono entrambe cose molto importanti che però possono andare anche di pari passo. Secondo me, e spesso e volentieri è utile avere prima un momento separato in cui le ragazze o comunque le persone socializzate come donne riescono a trovare il proprio spazio senza dover combattere per poterlo avere, che comunque si deve fare, perché negli allenamenti abbiamo visto che pian piano dall'area piccola si passava all'area grande, poi negli ultimi, proprio ultimi allenamenti si è arrivati a fare metà campo, però soltanto perché avevamo delle partite. Quindi anche lì mi viene da dire che si fanno dei passi in avanti grossi all'interno della Stella Rossa, e vedendo anche poi a Catania come era diviso il campo, e mi viene da dire che sono un po' abbastanza fiero di come questa squadra è cresciuta, perché ha fatto tanti passi molto velocemente verso una divisione più equa dell'allenamento, e anche cioè, la femminile si è conquistata tanto rispetto molto velocemente, secondo me. Quindi è vero che giocare in una squadra esclusivamente femminile ti dà la possibilità, secondo me, di capire le tue capacità senza doverti per forza confrontare con, scusatemi ragazzi, cioè il maschio macio che placca chiunque, da una bestia, e tu sei tipo, non lo so, però è anche vero che comunque c'è tanto, in un qualche modo, conflitto, e c'è tanto da fare per creare il proprio spazio anche in una situazione solo femminile. La mista, secondo me, è più il punto finale, quello in cui riusciamo a capire che abbiamo magari corpi diversi, ma che ci sono corpi diversi all'interno del, cioè fra le ragazze, ma anche fra i ragazzi e fra ragazze e ragazze, e che comunque possiamo imparare a usare questa cosa per giocare tutti insieme. Quindi cioè, sono due cose molto importanti, diverse, e quindi mi viene da dire, cioè, a me piacerebbe giocare in entrambe le cose. Cioè, mi piace che esista uno spazio separato, ma mi piace anche che impariamo a stare insieme con rispetto. Grazie mille, Gio. Duiz, ti siedi qua. Scusate se parlo di nuovo, sono di nuovo Duilio. Mi aggancio a quello che dicevi, Gio, per lanciare un po', diciamo, la sfida tecnica che stiamo affrontando noi come Stella Rossa, che è nata quest'anno, no? Perché il progetto della femminile è nato così, vediamo se riusciamo, e poi cazzo, c'erano 15 ragazze in campo. Diciamo, rispetto a questo grosso dubbio e bellezza, anche, cioè avere questo dubbio è un lusso, di avere le ragazze che possono giocare con la WISP, diciamo, e anche per agganciarsi prima al discorso 15-7, la difficoltà tecnica, su cui in verità Stefano diceva che noi stiamo andando bene, ma abbiamo davvero bisogno di consigli tecnici su questo, è che bisogna capire come gestirlo a livello tecnico, perché l'allenamento WISP tutti assieme, e se le ragazze giocassero in un campionato a 15 sarebbe tutto perfetto, perché potremmo fare l'allenamento 100% assieme, ma col fatto che una squadra femminile a 15 deve giocare, cioè deve fare degli allenamenti in cui sono solo ragazze e ci si allena assieme per la partita, no? E lo stesso vale per il 7, che comunque, come sappiamo, è un pochino diverso come anche tipologia di gioco, no? Quindi un dubbio che stiamo avendo noi sull'aspetto proprio tecnico, anche per l'anno prossimo, no? Per programmarlo, è non solo come dividere i tempi, gli spazi, anche le risorse, diciamo, di conoscenza di chi sa un po' allenare, ma anche come cercare di conciliare questa cosa. Cioè, noi vorremmo davvero che ci fossero più ragazze possibili che giocano nella WISP, ma dall'altra parte che il progetto della femminile avesse una dignità e una potenza sua, no? E quindi riuscire anche a ripartire gli spazi e i tempi all'interno dell'allenamento, di cosa fare assieme e di cosa fare separati, per dare risalto, diciamo, e questa è una cosa molto difficile, per cui è un punto che riporto, perché abbiamo davvero bisogno di aiuto tecnico. Non so, l'esperienza dei Reds, cioè, che per fortuna risale ad anni fa, sarà iniziata come la nostra, immagino. Quindi io chiederei, ma anche dopo, chiacchierando con calma, di cercare di, non so, ripercorrere assieme e vedere come l'avete fatto anche voi, per capire di, insomma, di farlo al meglio. Sicuramente l'anno prossimo ci poniamo come obiettivo di fare una WISP mista, in cui gioca chi se lo merita, e basta. Però gioca Gio, sempre sportellate, però insomma, questo non deve andare a discapito del progetto della femminile, che secondo me va portato avanti anche proprio di per sé, ecco.